Eccoci con Alberto Ciampi per parlare dell'ottava vetrina dell'editoria e delle culture anarchiche e libertarie a Firenze dal 22 al 24 di settembre. Alberto, ben ritrovato. Grazie, mi fa molto piacere risentirti, Federico. E ormai è diventato un appuntamento abituale, e allora raccontiamo un po' dalla sua partenza, come è nato il progetto. Dunque, ormai sono 15 anni, perché iniziamo nel 2002 a seguito del social forum fatto a Firenze, e un gruppo, diciamo, di anziani, fra virgolette, ma insomma con la speranza di inserire un po' di giovani, pensammo di realizzare un incontro a carattere più vasto possibile, anche internazionale se fosse stato possibile, appunto, all'interno del quale fosse non solo possibile far vedere gli anarchici in tutte le loro sfaccettature, ma raccontare agli altri e guardare noi stessi quanti siamo, come siamo e quante varianti esistono all'interno della cultura anarchica e libertaria in genere. E giocando molto però sul freschi di stampa, sulle preparazioni, sulle cose da che sono in corso d'opera, da farsi, che sono in programma, quindi anticipare ciò che ci sarà in seguito. Allora avemmo la fortuna di incrociare attraverso un assessorato disponibile uno spazio molto bello, gratuito, al parterre a Firenze in Piazza della Libertà, dove facemmo questa cosa nel 2003, che ebbe un successo enorme, per cui questo ci mise voglia di proseguire, di continuare. E le richieste erano tante, un po' da tutte le parti d'Italia, dall'Europa e anche dalle Americhe, in particolare poi da alcuni paesi dell'Est, e quindi cominciamo da subito a organizzare la seconda. E a quel punto però la disponibilità del comune venne meno, e fummo costretti a trovare un luogo. Siete pur sempre anarchici, insomma. Certamente sì, appunto, era andata bene una volta, due non poteva. e allora niente, abbiamo deciso di attraverso un nostro amico che gestisce in parte l'ex Teatro Tenda, mitico Teatro Tenda, che esiste fino dai primissimi anni 70, poi andò distrutto per un incendio e poi ricostruito. In pratica, insomma, paghiamo l'affitto, ci tratta abbastanza bene, ma paghiamo l'affitto, che per noi è importante, con una cifra importante, che ci permette però di avere tutto a disposizione, mezzi di riproduzione, spazi, superfici, bar, cucine per poter produrre in proprio cibi per gli ospiti, per i visitatori, e quindi anche con queste riuscire a far pari, perché il nostro obiettivo è avere molta gente e fare pari, non ci interessa altro. Sì. Allora, volevo chiederti intanto, nella panoramica dell'editoria libertaria, quanti sono gli editori che fanno riferimento al vostro festival? Allora, in Italia, Allora, diciamo che esistono alcune grandi biblioteche, librerie, produttori di CD, DVD, libri, eccetera, che sono in particolare l'Eutera a Milano, la Biblioteca Serantini di Pisa, Sicilia.l in Sicilia, appunto, che hanno cataloghi con centinaia di titoli, quindi case edifici molto molto molto importanti. Poi c'è una miriade di situazioni più contenute che fanno capo a centri studi, ad archivi, a gruppi, a movimenti in ambito locale, e per cui possiamo tranquillamente dire che solo in Italia ci sono almeno 50-60 luoghi, sì, diciamo, della cultura anarchica e libertaria, che producono con diversa intensità, con diverse caratteristiche materiali. E poi ci sono le individualità, perché gli anarchici ovviamente, come dire, operano anche da soli. Anche da soli. Ecco, e quindi ci sono persone, singoli, che non so se hai visto il pieghevole, ci sono singoli che hanno dato l'adesione, ma questi singoli sono di fatto portatori di un linguaggio, di una cultura libertaria e anarchica, ora nell'arte, ora nella comunicazione d'altro tipo, o nella musica per esempio, e quindi, come dire, il panorama si amplia molto. A questo si sommano i paesi, diciamo, esterni all'Italia, in particolare in Europa, ma qualcosa dalle Americhe, qualcosa dalla Russia, dalla Polonia, eccetera. Ci sono, quest'anno c'è anche il Kurdistan, la Svizzera, 5 francesi, Salonicco, insomma. È un grosso giro, sì, è diventato un grosso giro. Senti, a fronte anche della crisi dell'editoria con l'avvento del digitale, e quali sono le contromisure delle edizioni anarchiche e libertarie? Allora, normalmente c'è una riduzione, quando è possibile, una riduzione delle copie a stampa cartacea, però conservando la medesima, e in parallelo fare ebook, le pubblicazioni elettroniche. Sì. La tendenza però, come dire, è quella, almeno per le più grandi, fra queste noi non siamo grandi, ma anche come l'associazione Centro Studi Storici della Val di Pesa cerca di pubblicare su cartaceo, poi magari una volta che sono esauriti si mette un PDF da scaricare gratuitamente, si mette in rete, e quindi questo è un servizio che offriamo. Però c'è una forte passione per la carta, sì, che cerchiamo di mantenere in tutti i modi possibili, e quindi da cose d'arte, come A Parte, appunto, è una rivista che ormai ha raggiunto il 19° anno di vita ed è una rivista d'arte che stampiamo a Venezia, formato molto particolare, formato long play in 33, tipo 33 giri appunto, su carta speciale, ci lavoriamo in molte persone un po' in tutta Italia e anche dall'estero, e riusciamo a pubblicare 2 numeri soli l'anno, ma è una rivista ormai cult, come si dice, nel senso, è molto amata perché è bella, è veramente bella, proprio bella, ci teniamo molto. E poi tanti libri, anche dal tascabile a quello economico, a quello che poi può andare, come dire, nelle tasche, nelle zavorre dei senza lavoro, dei tanti compagni, amici, giovani, studenti, eccetera, che girano intorno al movimento, nelle varie sedi, nei vari contesti. Alberto, un'altra curiosità, se nell'opinione pubblica, sulla stampa ufficiale, l'area libertaria anarchica, sale sul palcoscenico in occasione magari delle mobilitazioni in ottavo, delle mobilitazioni contro i CPT, invece come pensiero l'editoria cosa esprime? Quale pensiero esprime? Quali filoni sono in crescita in questo periodo? Ma dunque, per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, l'arte in genere ha sempre tirato, ma ora in modo particolare, perché dal teatro alla grafica, alla pittura, alla musica, tantissima musica di recupero delle tradizioni culturali e storiche del movimento in genere, ma anche produzione nuova, creazioni nuove, lo testimonia questa vetrina, all'interno della quale ci sono 13-14 situazioni legate in vario modo alla musica, compreso l'Istituto Ernesto De Martino, che sarà presente da noi, ospite molto gradito, che è un patrimonio dal punto di vista storico, ma insieme Alessio Lega e tanti altri, les anarchistes o quello che ne resta di loro, operano a pieno ritmo. Parallelamente però resta, come dire, la ricerca, da una parte della storia del movimento, siamo molto, come dire, attaccati ai compagni, alle situazioni che ci hanno preceduto e che quindi vengono via via storicizzate scavando in un mare magnum molto grande, spesso tenuto coperto. Però in parallelo poi c'è la realtà di oggi, c'è il problema dei migranti, c'è il problema dei no, diciamo in OTAV, MUVOS, eccetera, e quindi dalla Sicilia a Venezia, alla Toscana, a tante altre parti, come dire, vengono seguiti questi gruppi e movimenti e sono parte del composito panorama anarchico. Senti Alberto, allora in chiusura ricordiamo luogo, date e anche siti web o pagine Facebook di riferimento. Allora, il luogo è l'ex Teatro Tenda, conosciuto così, ma oggi si chiama Obi Hall perché l'Obi è lo sponsorino che probabilmente gli dà qualche soldo, ed è sul Lungarno Aldo Moro, però preferiamo la strada secondaria che ci porta dentro, che è angolo via Fabrizio De André. E abbiamo il piacere di avere, come dire, una strada che lambisce il Teatro Tenda che si chiama Fabrizio De André. Inizia venerdì ora, quindi venerdì 22 alle 17 con la conferenza stampa che la terrò io e qualche altro compagno, e proseguirà per l'intero sabato, l'intera giornata fino a mezzanotte ed oltre, e il successivo giorno, cioè la domenica a seguire. Benissimo. Sito internet? Allora, andando su Vetrina Libertaria @inventati.it, da lì si trovano i riferimenti, o se no chiedendo semplicemente vetrina, ottava vetrina dell'editoria, in modo generico, con i motori di ricerca, insomma, si trova tranquillamente. Alberto, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie tantissimo Federico, un abbraccio anche a te. Ciao. Grazie, ciao.